dolce amor, il mio sogno più bello sei tu, la speranza più grande sei tu. Ti dirò con dolcezza infinita, Sagapo, Sagapo, questa magica cara parola d'un'antica leggenda d'amor. Il mare è tutto un incanto e l'onde ci parlan d'amor. Il cielo è un velo d'argento che avvolge tremanti due cuori. T'amerò, t'amerò per la vita con languor, con ardor. La leggenda d'amor che ho sognata è una dolce realtà, mio sognata è una dolce realtà, mio tesoro.